Questo era il fulmine nella terra e siamo in collegamento, Irpinia 1980, siamo in collegamento con Mirko Di Martino che è l'autore. Ciao Mirko. Ciao, ciao, buongiorno. Allora, io ho avuto il piacere di vederlo quest'estate al Fringe qui a Roma e ci siamo contattati e finalmente siamo riusciti a mandarlo in onda e diciamo subito che ci sarà la possibilità di vederlo questo fine settimana a Castel Gandolfo. Sì, sì, a Castel Gandolfo, nell'ambito di una rassegna che si chiama Teatro di Quartiere, è una rassegna in un teatro piccolino lì a Castel Gandolfo, ma che propone una serie di spettacoli molto interessanti. Noi saremo in scena sabato sera e domenica pomeriggio, quindi per chi volesse c'è l'occasione di vederlo dal vivo. Allora, partiamo dal testo. Come ha avuto origine, Mirko? Il testo nasce da un'esigenza biografica, parlo di esigenza perché in realtà per me è accaduto così. Io sono originario di Lioni, anche se ormai non vivo più lì. Lioni è uno dei comuni come colpiti dal terremoto, come avranno ascoltato insomma gli ascoltatori nello spettacolo. E a un certo momento della mia personale biografia, così ho sentito la necessità, si tratta di 7-8 anni fa, insomma, il testo ha un'origine un po' più vecchia poi della messa in scena. Ho avvertito la necessità di scrivere questo spettacolo per poter fare un po' i conti, tra virgolette, con la mia esperienza personale, che però doveva essere anche una riflessione sulla comunità, sull'Irpinia e sull'Italia in generale. Oh, tra l'altro questa radio è stata direttamente coinvolta da quel disastro, perché si organizzarono gli aiuti, ci fu una raccolta di aiuti qui e poi partì una carovana che in uno dei paesi più colpiti creò una cucina da campo, insomma, e la distribuzione di questi aiuti raccolti a Roma. E volevo chiederti, Mirko, per la scrittura, allora hai fatto sicuramente uso di testimonianze, documenti, ecco, com'è stato il lavoro? Il lavoro è partito proprio da quello, dai documenti innanzitutto, perché io avevo 5 anni, quindi non ho memoria diretta del terremoto. Per le storie che io racconto mi sono riferito soprattutto agli articoli di giornale che fortunatamente mio padre aveva raccolto, ne avevo tanti a casa, quindi ho potuto attingere direttamente alle fonti. Poi l'altra fonte fondamentale è stata la memoria invece di quelli che erano presenti quella sera, i parenti, gli amici, le tante persone. E noi ancora adesso continuiamo a raccogliere testimonianze dirette, perché ogni volta che facciamo lo spettacolo capita qualcuno che, o come nel caso di Radio Onda Rossa, è venuto lì a prestare aiuto e quindi ci racconta la propria esperienza di volontario, oppure persone che vivono in Irpinia all'epoca e vivono qui e che ci tengono a dire che cosa facevano in quel momento, perché è come per l'11 settembre, no? Ognuno ricorda esattamente che cosa faceva in quel momento e come la sua vita è stata cambiata da quel terremoto. Ed ecco perché il valore dello spettacolo per me e per chi lo ascolta oggi. In Irpinia ancora oggi si continua a pensare in termini di prima e dopo, la vita prima del terremoto, la vita dopo. È uno spartiacque fondamentale che per la comunità irpina è stato assegnato una crisi, una catastrofe, ma in senso più simbolico che perché poi si è recuperato, ma tante cose si sono perse e ancora oggi si ha la sensazione di aver perso più di quanto si è riuscito a recuperare. Senti, parliamo anche un po' dell'esperienza del Teatro dell'Osso, Mirko. Sì, il Teatro dell'Osso nasce in Irpinia, anche se ormai si è radicato a Napoli, ma è nato lì in Irpinia, e questa la nascita irpina me la porto ancora dietro, perché l'idea del Teatro dell'Osso era di fare un teatro che fosse povero nell'allestimento, ma che fosse contenuti, e che partisce anche da una marginalità per farla diventare poi un'occasione di diversità. Noi portiamo il nostro modo di fare teatro, lo portiamo in scena con degli spettacoli che si caratterizzano per la particolarità dei temi. Stiamo portando in giro uno spettacolo su Artemisia Gentileschi a Napoli, un altro su una scrittura di Antigone ambientata durante la guerra partigiana. Sono storie particolari che rivelano il mio personale modo di vedere il teatro e anche la nostra società. Io cerco molto di parlare di oggi parlando del passato. Senti, tornando allo spettacolo, chiaramente prima parlavi della catastrofe del prima e del dopo. Ecco, il dopo cosa ha comportato per tutta l'Irpinia e la zona interessata da quella catastrofe? Il dopo, cosa più difficile anche da raccontare, ma anche la cosa più importante per me. Le tragedie, le storie dei drammi sono commoventi, ecco, io le racconto, c'è molta emozione ad ascoltarle, ma in realtà la commozione poi a un certo momento deve fermarsi e deve entrare la capacità di ripartire imparando. Ora in Irpinia purtroppo questo non c'è stato, la ricostruzione è stata veramente disastrosa, e non perché non sia stata fatta, alla fine dopo 30 anni ovviamente è stata fatta, anche se lentissimo, ci sono voluti 20 anni. Il problema sono state le scelte cioè di azzerare completamente la tradizione, la comunità, il territorio, la stessa topografia dei luoghi non è stata più rispettata, è stata cancellata, molti paesi sono stati costruiti in un'altra parte, e oggi ci troviamo in una terra, che è quello che racconto in uno spettacolo, dove i servizi e i consumi sono identici a qualunque altra parte d'Italia, ma che al contrario non ha più una sua identità, non ha più una sua radice, e gli abitanti stessi dell'Irpina non riescono più a riconoscersi nel territorio che non è più quello che i loro padri, che i loro nonni hanno vissuto, abitato e costruito. Sì, c'è uno smarrimento fortissimo in Irpina da questo punto di vista, oltre alle questioni sociali che sono piuttosto complesse, ma mi riferisco proprio alla capacità di sentirsi legati alla propria terra, che in Irpina non c'è più. L'Irpina è sempre stata una terra di emigranti, ma gli emigranti irpini hanno sempre desiderato tornare a casa. Oggi questo desiderio non c'è più, oggi si desidera solo andare via senza nostalgia, al contrario, si sente l'Irpina come una terra straniera dove non c'è nulla, non offre nulla, ma perché i legami si sono interrotti e noi non siamo stati in grado di ricucire. Mirko, è stato un piacere. Io i riferimenti come link ho messo il sito internet della compagnia teatrodellosso.it. Sì, benissimo. Siamo anche su Facebook, che per chi volesse seguirci ci facciamo pubblicità, ma comunque il sito raccoglie tutto il materiale. Bene. Mirko, allora a questo punto ci diamo appuntamento magari per un prossimo lavoro. Senz'altro, con piacere. Io spero di poter presentare i prossimi lavori, in particolare quest'Antigone che tu tra l'altro hai visto. Quindi, avuto modo di vedere, certo. Sarà un piacere mio proporre a Radio Onda Rossa qualche altra cosa, speriamo di poterlo fare. Allora un abbraccio e a presto. Grazie, un abbraccio anche a voi. Ciao Mirko.